di Anne Bronte, Agnes Grey. Rusconi Editore, traduzione di Lia Spaventa Filippi. Capitolo primo. La parrocchia. Tutte le storie vere contengono un insegnamento, benché in alcune il tesoro sia difficile da scoprire e così trascurabile che il nocciolo, secco e grinzoso, non compensa il disturbo di aver schiacciato il guscio. Se questo si possa dire o no per il mio racconto, non sono in grado di giudicare. Certe volte penso che possa essere utile ad alcuni e interessante per altre, ma la gente deve giudicare da sé. Protetta dalla mia oscurità, dal tempo trascorso e dai nomi fittizi, non temo di intraprendere la narrazione e di presentare candidamente al pubblico quello che non paleserei all'amico o all'amica più intima. Mio padre era un pastore dell'Inghilterra del Nord, a ben ragione, rispettato da tutti quelli che lo conoscevano. Al tempo della sua gioventù viveva abbastanza agiatamente della doppia rendita di un esiguo beneficio ecclesiastico e di una piccola proprietà. Mia madre, che l'aveva sposato contro la volontà dei suoi familiari, era figlia di uno squire e donna di cuore. Inutilmente le fecero presente che diventando la moglie di un povero parroco doveva rinunciare alla carrozza, alla cameriera, al lusso e all'eleganza che dà la ricchezza, che erano per lei poco meno che prime necessità. Carrozza e cameriere erano molto comode, ma grazie al cielo ella aveva piedi che l'avrebbero portata e mani che l'avrebbero servita. Una casa elegante e possedimenti terrieri non erano cose da disprezzarsi, ma lei avrebbe preferito vivere in una capanna con Riccardo Grey piuttosto che in un palazzo con qualsiasi altro uomo. Vedendo che i ragionamenti erano inutili, suo padre alla fine dichiarò che gli innamorati si sposassero pure se volevano, ma che così agendo sua figlia non doveva aspettarsi neppure un soldo della sua dote. Credeva che questo avrebbe raffreddato l'ardore di ambedue, ma sbagliò. Mio padre conosceva troppo bene il vero valore di mia madre per non capire che lei sola era una fortuna e, purché avesse acconsentito a curare il suo modesto focolare, sarebbe stato felice di prenderla a qualunque condizione, mentre lei, da parte sua, avrebbe preferito lavorare la terra di sua mano piuttosto che essere separata dall'uomo che amava. Farlo felice sarebbe stata tutta la sua gioia. E i due erano già un'anima e un cuore solo. Così la sua dote andò a gonfiare la borsa di una sorella più saggia che aveva sposato un ricco nababbo, ed ella, con stupore e commiserazione di tutti quelli che la conoscevano, andò a seppellirsi nella parrocchia di un povero villaggio. E nonostante tutti questi precedenti, nonostante la fierezza di mia madre, le bizzarrie di mio padre, credo che non possiate, cercando in tutta l'Inghilterra, trovare una coppia più felice. Dei sei figli, io e mia sorella Maria fummo le sole che sopravvivemmo ai pericoli dell'infanzia e della prima fanciullezza. Essendo più giovane di 5 o 6 anni, io ero sempre considerata la bambina, la cocca di casa. Padre, madre e sorella erano tutti d'accordo a viziarmi, non che la loro sciocca indulgenza mi rendesse capricciosa e ribelle, ma la loro continua bontà mi faceva troppo timida e sottomessa, troppo incapace di lottare contro le avversità e le tempeste della vita. Io e Maria fummo allevate completamente separate dalla società. Mia madre, essendo molto raffinata e istruita e nello stesso tempo amante dell'attività, prese su di sé tutto il peso della nostra educazione, fatta eccezione per il latino che ci veniva insegnato da mio padre, cosicché non andammo mai a scuola e siccome nelle vicinanze non c'era alcuna vita sociale, i nostri unici rapporti col mondo consistevano nel partecipare di tanto in tanto, per evitare di essere considerate tanto orgogliose da non voler frequentare i vicini, a dei tè d'etichetta dati dai principali proprietari di terre e commercianti dei dintorni. E in una visita annuale al nonno paterno, ove oltre lui la cara nonna, una zia zitella e 2 o 3 signore e signori anziani erano le sole persone che vedevamo. A volte nostra madre ci raccontava storie e aneddoti della propria giovinezza che, oltre a divertirci e a sorprenderci, spesso svegliavano in me perlomeno il desiderio segreto di vedere un poco più di mondo. Pensavo che mia madre doveva essere stata molto felice, ma non pareva che rimpiangesse i tempi passati. Mio padre, comunque, il cui carattere non era per nulla né tranquillo né gaio, Spesso si tormentava fuori di luogo, pensando ai sacrifici che la sua cara moglie aveva fatto per lui, e si stillava il cervello con infiniti progetti per aumentare la sua piccola fortuna per amore della moglie e delle figlie. Mia madre l'assicurava invano di essere contenta e che se avesse risparmiato qualche cosa per le figlie avremmo avuto abbastanza sia per il presente che per il futuro. Ma l'economia non era il forte di mio padre. Non faceva debiti. Almeno mia madre cercò di tutto perché questo non avvenisse, ma quando aveva denaro doveva spenderlo. Gli piaceva vedere delle comodità nella casa e vedere moglie e figlie ben vestite e ben servite. E inoltre era caritatevole, prendeva gusto a dare ai poveri secondo i suoi mezzi, o anche di più, a giudizio di alcuni. Una volta un amico affezionato gli suggerì il modo di raddoppiare di colpo la sua fortuna e poi aumentarla fino a una somma incalcolabile. Codesto amico era un mercante, un uomo pieno di iniziative e di talento indiscutibile, un po' inceppato nelle sue iniziative affaristiche dalla mancanza di capitali. Così, generosamente, stabilì di dare a mio padre una buona parte dei profitti se solo gli avesse affidato quel che poteva economizzare. E credette di poter premettere come cosa certa che qualsiasi somma quest'ultimo gli avesse consegnato gli avrebbe reso il 100%. Il piccolo patrimonio fu prontamente venduto e tutto il suo valore deposto nelle mani dell'amico mercante, che subito si mise a imbarcare la sua mercanzia e preparare il suo viaggio. Sia mio padre che noi ci pascevamo di luminose speranze. Per il momento, è vero, eravamo ridotti alla misera entrata della parrocchia, ma mio padre non pensò che fosse necessario tenerci a questa per le nostre spese, così con un credito aperto dal signor Jackson, un altro da Smith e un terzo da Hobson, si tirava avanti più largamente di prima, benché mia madre dicesse che avremmo fatto meglio a non uscire dai limiti, perché in fin dei conti le nostre speranze di ricchezza erano precarie e se mio padre avesse affidato tutto alla sua direzione, non si sarebbe mai sentito in ristrettezze, ma egli, bisogna dire, era incorreggibile. Che giorni felici abbiamo passato io e Maria, quando sedute al nostro lavoro accanto al fuoco, o passeggiando per le colline coperte di erica, o riposando sotto il salice piangente, l'unico grosso albero del giardino, si discuteva della felicità futura nostra e dei genitori, senza nessun altro fondamento più solido per il nostro castello dorato che le ricchezze che dovevano affluire dai successi delle speculazioni del degno mercante. Nostro padre si illudeva quasi quanto noi, solo fingeva di non essere altrettanto impaziente ed esprimeva le sue radiose speranze e aspettative con parole e sortite scherzose che mi colpivano sempre come molto spiritose e amene. Mia madre rideva contenta al vederlo tanto speranzoso e felice, ma pure temeva che si fidasse troppo esclusivamente del buon esito dell'affare. Una volta l'udì mormorare, mentre lasciava la stanza, Dio faccia che non sia deluso, so che non lo sopporterebbe. Fu invece deluso e amaramente. Arrivò su noi tutti come un fulmine la notizia che il bastimento che conteneva la nostra fortuna era naufragato e affondato, con tutto il suo carico, insieme con parecchi della ciurma e l'infelice mercante. Fui addolorata per lui e fui addolorata per il fallimento di tutti i nostri castelli in aria, ma con la spensieratezza della gioventù mi ripresi presto dal colpo. Se la ricchezza aveva attrattive, la povertà, per una ragazza priva di esperienza come me, non aveva paure. E a dir la verità, c'era qualcosa di stimolante nell'idea di essere caduti in ristrettezza e ridotti alle nostre risorse personali. Mi auguravo che babbo, mamma e Maria fossero tutti della mia stessa opinione e allora, invece di piangere sulle calamità passate, potevamo tutti di buona lena metterci al lavoro per rimediarvi. E più grandi sarebbero state le difficoltà, più dure le nostre presenti privazioni, maggiore sarebbe stata la nostra buona volontà per sopportare queste ultime e la nostra energia per superare le prime. Maria non si lagnava mai, ma pensava continuamente alla disgrazia e affondava in uno stato di scoraggiamento da cui non si poteva sollevarla in nessun modo. Non mi era possibile farle considerare l'incidente dal lato favorevole da cui lo consideravo io, e anzi temevo talmente di essere accusata di leggerezza e insensibilità che tenevo la maggior parte delle idee luminose e dei consolanti sentimenti per me, ben sapendo che non potevano essere capiti. Mia madre pensava solo a consolare mio padre, a pagare i nostri debiti e a restringere le spese con ogni mezzo efficace, ma mio padre giaceva completamente sopraffatto dalla sventura. Salute, forza e coraggio erano annientati sotto il colpo e non poterono essere riacquistati mai più del tutto. Invano mia madre cercava di rianimarlo facendogli presente l'amore, il coraggio e l'affetto che egli aveva per lei e per noi. Proprio quell'affetto costituiva il suo tormento più grande. Era stato per amore nostro che aveva ardentemente aspirato ad aumentare il suo avere. Era l'interesse per noi che aveva illuminato la sua speranza e che rivestiva d'amarezza la sua infelicità presente. Ora era tormentato dal rimorso di non aver ascoltato il consiglio di mia madre che l'avrebbe almeno salvato dal peso dei debiti e si rimproverava inutilmente di averla sottratta a un'esistenza comoda e al lusso della sua condizione precedente, offrendole in compenso le ambasce e le fatiche della povertà. Era un dolore, un tormento per il suo animo vedere quella donna bella e fine, una volta tanto corteggiata e ammirata, trasformata in un'attiva massaia con mani e cervello sempre occupati dalle faccende domestiche e dall'economia della casa. Anche lo zelo con cui essa assolveva questi doveri, la serenità con cui affrontava i rovesci, la bontà con cui si asteneva dall'indirizzargli il più piccolo biasimo, tutto aggravava le sofferenze di quest'uomo tanto ingegnoso nel tormentarsi. Lo spirito influì sul corpo e alterò il sistema nervoso, e questo a sua volta aumentò i disturbi dello spirito, così che, per un giro vizioso, la sua salute andò peggiorando. Nessuno di noi riusciva a convincerlo che la prospettiva dei nostri affari non era poi così triste e disperata come li dipingeva la sua immaginazione ammalata. La comoda carrozza fu venduta insieme al pony grasso e ben pasciuto, il vecchio beniamino che avremmo voluto finisse i suoi giorni in pace, senza passare in altre mani. La piccola rimessa e la stalla furono abbandonate, il garzone, la più efficiente, essendo la più costosa, delle due domestiche, furono licenziati. I nostri vestiti furono rammendati, rivoltati e goduti fino al limite della decenza. Il nostro cibo, sempre semplice, subì ora una nuova semplificazione abolendo i piatti favoriti di mio padre. Carbone e candele furono scrupolosamente economizzati, le due candele ridotte a una sola e questa utilizzata fino all'estremo. Il carbone parsimoniosamente disposto sulla griglia semivuota, soprattutto quando mio padre era fuori per i suoi doveri parrocchiali o confinato a letto per malattia. Allora sedevamo poggiando i piedi sul parafuoco e rastrellando di volta in volta le braci morenti e ogni tanto aggiungendo con la paletta un po' di polvere e di rimasugli di carbone tanto per tenerlo vivo. I tappeti poi furono consumati fino alla trama e sottoposti agli stessi rattoppi e rammendi dei nostri abiti. Per risparmiare la spesa di un giardiniere, io e Maria ci prendemmo cura del giardino e tutto il lavoro della cucina e della casa, che non poteva facilmente essere assolto dall'unica domestica, fu compiuto da mia madre e da mia sorella, aiutate qualche volta da me, qualche volta perché, benché fossi già una donna, secondo il mio parere, secondo l'altro ero solo una bambina. E mia madre, come la maggior parte delle donne attive e delle massaie valenti, non possedeva delle figliole molto attive, per la ragione che la sua capacità e bravura la rendevano restia ad affidare le sue faccende ad un'altra persona. E qualunque fosse il lavoro in questione, pensava che nessuno potesse farlo bene come lei. Così, tutte le volte che le offrivo il mio aiuto, ricevevo questa risposta: «No, amore, non è per te, qui non c'è nulla che tu possa fare. Va, va ad aiutare tua sorella o portala a spasso. Dile che non deve star seduta troppo a lungo e che non deve rimanere sempre in casa, altrimenti diventerà pallida e malinconica». «Maria, mamma dice che devo aiutarti o accompagnarti a spasso perché diventi pallida e malinconica a rimanere sempre in casa. Non puoi aiutarmi, Agnes, e non posso uscire con te. Ho troppo lavoro. Lascia allora che ti aiuti. Davvero non sei capace, bambina cara, va a studiare musica o a giocare col gattino». C'era sempre una gran quantità di lavoro di cucito, ma non mi era stato insegnato a tagliare neppure un vestito, ed eccetto costure e orli grossolani c'era poco da fare per me anche in quel campo, poiché sia mia madre che mia sorella dichiaravano che tornava loro più facile eseguire il lavoro che prepararmelo. D'altronde preferivano vedermi divertire o continuare i miei studi. Sarebbe stato troppo presto per me curvarmi sul lavoro come una grave matrona, perfino quando la mia cara amicetta fosse diventata una gatta grande e grossa. In tal modo, benché non fossi affatto più utile della micia, il mio ozio non era senza scusa. Durante tutte le nostre avversità, udii una sola volta mia madre lagnarsi della mancanza di denaro. Quando arrivò l'estate, disse a Maria e a me: "Che bellezza se vostro padre potesse trascorrere alcune settimane ai bagni di mare. Sono convinta che l'aria marina e il cambiamento di ambiente gli sarebbero di grandissimo profitto, ma vedete bene, non c'è denaro." Aggiunse con un sospiro: "Noi due, desiderando di attuare il progetto, ci lamentammo dell'impossibilità." "Bene," disse, "lagnarsi non serve a nulla. Forse in fondo si può fare qualcosa per riuscire nell'intento. Maria, tu disegni bene. Che cosa ne diresti di eseguire qualche disegno che, incorniciato con gli acquarelli che hai già fatto, potrebbe essere venduto a qualche generoso mercante di quadri che sapesse riconoscerne i meriti?" "Oh, mamma, sarei felice se credi che si possano vendere, non importa a che prezzo." "Beh, comunque vale la pena tentare, mia cara. Tu pensa ai disegni e io vedrò di trovare il compratore." "Vorrei fare anch'io qualcosa," dissi io. "Tu, Agnes?" "Ebbene, chissà, anche tu disegni abbastanza bene. Se sceglierai un soggetto facile, probabilmente riuscirai a produrre qualcosa che saremo orgogliose di mostrare." "Ma io ho un altro progetto in testa e ci penso da molto tempo, solo che non ho mai osato parlarne." "Beh, di che si tratta?" "Mi piacerebbe fare la governante." Mia madre lanciò un'esclamazione di sorpresa e scoppiò a ridere. A mia sorella cadde il lavoro di mano per lo stupore ed esclamò: "Tu, governante? Agnes? Ma che cosa ti sogni?" "Ebbene, non ci vedo nulla di tanto straordinario. Non pretendo di essere in grado di istruire delle ragazze grandi, ma sicuramente potrei insegnare alle piccole e mi piacerebbe tanto. Sono innamorata dei bambini, delle bambine. Lasciami provare, mamma." "Amor mio, non hai ancora imparato a prenderti cura di te stessa? I bambini e le bambine piccole richiedono più giudizio e più esperienza di quel che occorre per educare i ragazzi e le ragazze più grandi." "Ma mamma, ho 18 anni compiuti e sono perfettamente capace di prendermi cura di me stessa e pure degli altri. Non conoscete la metà del giudizio e della prudenza che posseggo perché non mi avete mai messa alla prova." "Oh, pensa soltanto," disse Maria, "a quel che faresti in mezzo degli estranei, senza me o mamma che parli e si muova per te, con una truppa di bambini a cui provvedere oltre te stessa e senza anima viva a cui chiedere consiglio. Non sapresti neppure che vestito mettere." "La pensate così perché faccio sempre quello che mi ordinate e non posso avere un'opinione mia, ma mettetemi alla prova. È tutto quello che chiedo, vedrete se non sarò capace." In quel momento entrò mio padre e gli fu esposto l'argomento della discussione. "La mia piccola Agnes governante!" esclamò, e nonostante il suo abbattimento scoppiò a ridere all'idea. "Via, babbo, non opporti, mi piacerebbe tanto e sono sicura che riuscirei ad essere un'ottima governante." "Ma cara, non possiamo rinunciare a te." E una lacrima gli brillò negli occhi mentre aggiungeva: "No, no, benché in miseria, certamente non siamo ancora a questo punto." "Oh no," disse mia madre, "non c'è nessuna necessità di ricorrere a quel partito. È semplicemente un tuo capriccio, così chiudi la bocca, cattivella, che se tu sei tanto pronta a lasciarci, sai benissimo che noi non lo siamo altrettanto a separarci da te." Fui messa a tacere per quel giorno e per molti altri, ma pure non abbandonai il progetto che mi stava a cuore. Maria prese i suoi strumenti da disegno e si mise ardentemente all'opera. Anch'io presi i miei. Ma mentre disegnavo, pensavo ad altre cose. Sarebbe stato magnifico farla governante, andare in giro per il mondo, cominciare una vita nuova, far da sola, adoperare le mie facoltà fino allora inutilizzate, scoprire le mie capacità ignorate, guadagnarmi la vita ed essere io di aiuto e di conforto a mio padre, a mia madre e a mia sorella, esonerandole dal mantenermi. Mostrare al babbo di che cosa era capace la sua piccola Agnes. Convincere mamma e Maria che non ero quell'essere assolutamente inutile e spensierato che esse credevano. E poi Com'era interessante avere da allevare ed educare dei bambini, delle bambine. Qualsiasi cosa ne dicessero gli altri, sentivo di essere completamente all'altezza del compito. Il netto ricordo di quelli che erano stati i miei pensieri nell'infanzia sarebbe stata una guida più sicura dei suggerimenti del più maturo consigliere. Non avevo che da rammentare quel che ero stata io all'età dei miei alunni o alunne per sapere come guadagnare la loro confidenza e il loro affetto, come risvegliare il rimorso di aver sbagliato, come incoraggiare il timido e consolare l'afflitta, come rendere possibile l'esercizio della virtù, desiderabile l'istruzione, amabile e comprensibile la religione. Delizioso compito, far sbocciare la giovane mente e coltivare le piante tenere e vedere i loro boccioli aprirsi giorno per giorno. Sostenuta da tante ragioni, perseverai nella mia idea, benché il timore di dispiacere a mia madre e di ferire i sentimenti di mio padre mi impedissero per diversi giorni di ritornare sul soggetto. Finalmente ne riparlai a mia madre da sola e non senza difficoltà ottenni che mi aiutasse con tutti i suoi mezzi. Ottenemmo poi il consenso riluttante di mio padre e allora, benché Maria, sospirando ancora, disapprovasse, la mia cara mamma cominciò a cercarmi un posto. Scrisse ai parenti di mio padre e consultò gli avvisi del giornale. Con la propria famiglia aveva da lungo tempo interrotto ogni relazione. Dal matrimonio in poi i contatti erano ridotti a uno scambio di lettere formali nelle ricorrenze. E quindi non avrebbe a nessun costo voluto ricorrervi in un caso di quel genere, ma i miei genitori erano vissuti per tanto tempo lontano e separati dal mondo che trascorsero parecchie settimane prima che mi si potesse trovare un posto conveniente. Finalmente, con mia grande gioia, fu deciso che mi sarebbe stata affidata la giovane figliolanza di una certa signora Bloomfield, che la mia buona zia Grey aveva conosciuta in gioventù e che era, a dir suo, una donna molto perbene. Suo marito era un mercante in ritiro che aveva accumulato una cospicua fortuna, ma che non si poté indurre a mollare più di 25 sterline all'anno alla governante dei suoi figli. Comunque, io fui contenta di accettarle, piuttosto che rinunciare a una situazione che ai miei genitori sembrava fosse la soluzione migliore. Ma diverse settimane ancora furono dedicate ai preparativi. Come mi parvero lunghe e noiose quelle settimane. Eppure, nel complesso, esse furono molto felici, piene di speranze, di aspettativa. Con quale piacere vidi cucire i miei vestiti nuovi e poi preparare i bagagli. Ma anche un sentimento di amarezza si mescolava a quest'ultima occupazione. E quando fu terminata, quando tutto fu pronto per la mia partenza del giorno dopo e si avvicinò l'ultima sera da passare a casa, un'angoscia improvvisa mi gonfiò il cuore. I miei familiari mi guardavano con tanta tristezza e parlavano con tanta dolcezza che a stento potevo trattenere le lacrime. Ma fingevo di parere allegra. Avevo fatto l'ultima passeggiata nella brughiera con Maria, l'ultimo giro in giardino e intorno alla casa. Con lei avevo dato da mangiare per l'ultima volta i nostri diletti piccioni, addomesticati a venirci a beccare in mano. In segno di saluto avevo accarezzato i loro dorsi di seta mentre mi si appollaiavano in grembo. Avevo baciato teneramente i miei prediletti, una coppia di piccioni con la coda a ventaglio candidi come la neve. Avevo provato la mia ultima aria sul vecchio piano di famiglia e cantato la mia ultima canzone al babbo. Non l'ultima sperando, ma l'ultima chissà per quanto tempo. E forse pensavo, quando avrei potuto rifare queste cose, sarebbe stato con altro sentimento. Potevano essere cambiate le circostanze e questa casa forse non sarebbe stata più la mia. La mia cara amicetta certo sarebbe stata diversa. Già cominciava a diventare una bella gatta adulta e quando fossi tornata anche per una visita affrettata a Natale, avrebbe probabilmente dimenticato sia la sua compagna di giochi che la sua divertente vivacità. Avevo scherzato con essa per l'ultima volta. E le carezzavo la morbida pelliccia lucente mentre stava addormentata sulle mie ginocchia, con un sentimento di tristezza che non potei reprimere facilmente. Poi, ritiratami con Maria all'ora di andare a letto nella nostra cameretta tranquilla, dove già i miei cassetti e la mia parte di libreria erano vuoti e dove mia sorella d'ora in poi avrebbe dormito sola, in una triste solitudine, come ella disse, sentii una pena ancora maggiore. Avevo l'impressione di essere stata egoista e cattiva nella mia ostinazione a lasciarla e quando mi inginocchiai quella sera accanto al nostro lettino, chiesi di benedire lei e i miei genitori con più fervore che mai. Per celare l'emozione nascosi il viso fra le mani che si bagnarono subito di lacrime. Notai, alzandomi, che anche mia sorella aveva pianto. Ma nessuna di noi due parlò e ci coricammo in silenzio, stringendoci l'una all'altra l'idea che ci saremmo ben presto separate. Ma il mattino mi portò nuova speranza e nuovo coraggio. Dovevo partire presto, di modo che la vettura che mi trasportava, la carrozza del signor Smith, mercante, droghiere e commerciante di tè del villaggio, potesse ritornare in giornata. Mi alzai, mi lavai, mi vestii, trangugiai in fretta la colazione, ricevetti gli abbraci affettuosi dei familiari, baciai il gatto con grande scandalo della domestica Sally, a cui diedi una cordiale stretta di mano, e salii in carrozza. Mi tirai il velo sulla faccia e allora, ma non prima, scoppiai in pianto. La vettura si mosse, mi voltai indietro, mia madre e mia sorella erano ancora sulla porta a guardarmi e indirizzarmi cenni di addio. Ricambiai i saluti e pregai con tutto il cuore perché le proteggesse. Scendemmo la collina e non le vidi più. È una mattina fredda per lei, signorina Agnes, disse Smith. E anche il tempo è grigio, ma spero che arriverà a destinazione prima che cada la pioggia. Sì, lo spero, risposi con la calma che potei. È venuta una buona acquata anche ieri sera. Eh sì, ma questo vento freddo smetterà, forse. Forse, sì. E qui finì il nostro colloquio. Attraversammo la valle, cominciammo a salire la collina di fronte. Si vedeva il campanile del villaggio e accanto la vecchia parrocchia grigia, nella luce di un obliquo raggio di sole. Non c'era che quell'unico raggio, poiché il villaggio e le colline circostanti erano tutte affondate nell'ombra. Salutai quel raggio vagante come un segno augurale per la mia casa. A mani giunte implorai con fervore la benedizione sui suoi abitanti e subito mi girai perché vidi il sole scomparire. Evitai di lanciare un altro sguardo da quella parte per non vedere la mia casa nell'ombra, come il resto del paesaggio. Capitolo 2. Prime lezioni nell'arte di istruire. Procedendo nel viaggio mi tornò il coraggio e volsi con piacere il pensiero alla vita nuova in cui stavo per entrare. Benché fosse appena passata la metà di settembre, le nuvole grigie e il vento di nord-est contribuivano a rendere la giornata straordinariamente fredda e triste. E il viaggio pareva molto lungo perché, come osservò Smith, le strade erano molto pesanti e certamente anche il suo cavallo era molto pesante. Arrancava su per la montagna e si trascinava per la distesa e non consentiva a mettersi al trotto se non quando la strada era piana o in leggero pendio, caso che avvenne di rado in quelle regioni accidentate. Cosicché era quasi l'una prima che raggiungessimo il luogo della nostra destinazione. Ma quando oltrepassammo il pesante cancello di ferro e salimmo dolcemente la strada battuta per i veicoli, fiancheggiata dai prati verdi con giovani piantagioni, e ci avvicinammo alla residenza di Wellwood, nuova ma imponente, torreggiante al di sopra dei pioppi che la circondavano, il cuore mi mancò e sentii il desiderio di essere ancora un miglio o due di distanza. Per la prima volta in vita mia dovevo far da me. Non c'era scappatoia possibile. Dovevo entrare in quella casa e presentarmi ai suoi abitanti sconosciuti, ma come? Avevo, è vero, 19 anni, ma per la mia vita ritirata e le cure gelose di mia madre e di mia sorella sapevo bene che molte ragazze di 15 anni o meno erano provviste di maggiore disinvoltura e sicurezza di me. Ma se la signora Bloomfield fosse stata una donna buona e materna, me la sarei cavata benissimo. E quanto ai bambini, naturalmente, mi sarei trovata presto a mio agio con loro e col signor Bloomfield speravo di aver poco a che fare. Sta calma qualunque cosa accada, mi dicevo. E tenni la risoluzione così bene, e fui così attenta a dominare i nervi e a reprimere i battiti precipitosi del cuore, che quando entrai e fui ammessa alla presenza della signora Bloomfield, quasi dimenticai di rispondere al suo cortese saluto, e quel poco che dissi fu con un tono di persona mezza morta o mezza addormentata. Anche la signora aveva qualcosa di glaciale nei modi, come capii quando ebbi tempo di riflettere. Era una donna grande, imponente, magra, con folti capelli neri, occhi grigi, freddi e un colorito molto pallido. Comunque, con la cortesia dovuta, mi mostrò la mia camera e mi lasciò perché mi riposassi un poco. Fui impressionata dalla mia immagine quando mi guardai nello specchio. Il vento freddo mi aveva gonfiato e arrossato le mani, scompaginate e arruffate le chiome e dipinto il volto di viola pallido. Si aggiunga che il mio colletto era orribilmente spiegazzato, il vestito inzaccherato di fango, i piedi calzati di grossolane scarpe nuove, ma siccome non mi era ancora arrivato il baule, non c'era rimedio. Così ravviai i capelli meglio che potei e, tirato più volte il colletto ostinato, discesi filosoficamente rassegnata alle due rampe di scale e con qualche difficoltà trovai come giungere nella stanza in cui mi aspettava la signora Bloomfield. Ella mi condusse in sala da pranzo dove era stata servita la colazione. Mi furono messe dinanzi delle bistecche e delle patate semifredde e mentre pranzavo, la signora, seduta davanti a me, mi osservava. Almeno così pensai, e si sforzava di sostenere qualcosa di simile a una conversazione, consistente principalmente in un seguito di osservazioni comuni espresse con la più frigida formalità. Ma la colpa era forse più mia che sua, poiché non ero in grado di conversare. La mia attenzione era quasi completamente assorbita dal mio pranzo, non perché avessi un appetito vorace, ma perché le bistecche erano dure e le mani semiparalizzate per essere state esposte al vento ghiacciato per 5 ore. Sarei stata contenta di mangiare le patate e lasciar la carne, ma avendone presa nel piatto una grossa fetta, non potevo commettere la sgarberia di lasciarla, così, dopo molti tentativi maldestri e vani di tagliarla col coltello o strapparla con la forchetta o ridurla a pezzi con l'una e l'altra, accorgendomi che l'imponente signora era spettatrice a tutta la manovra, alla fine disperata, afferrati nei pugni il coltello e la forchetta, come può fare una bambina di 2 anni, mi misi al lavoro con tutte le mie forze. Ma avevo bisogno di una giustificazione. Con un debole accenno a un sorriso dissi: ho le mani così intirizzite dal freddo che non riesco quasi a maneggiare coltello e forchetta. Certo, l'ha trovata fredda, rispose quella con una gravità glaciale che non giovò a rianimarmi. Terminato il pasto, mi condusse di nuovo nella stanza di soggiorno e qui suonò per chiamare i bambini. Non li troverà molto avanti negli studi, disse, perché ho avuto ben poco tempo di pensare alla loro educazione e li abbiamo finora giudicati troppo giovani per avere una governante, ma sono dei bambini intelligenti e svelti nell'imparare, specialmente il maschietto. Questi è, credo, il fiorfiore della nidiata, un ragazzo generoso, superiore, che si può guidare senza fatica e che soprattutto ha il merito di dire sempre la verità, ha in disdegno la menzogna. Questa era una buona notizia. Sua sorella Marianna ha bisogno di essere sorvegliata, ma in complesso è una ragazzina buonissima, benché vorrei che fosse tenuta fuori della stanza dei bambini il più possibile, perché ormai ha quasi 6 anni e può apprendere delle cattive abitudini dalle bambinaie. Ho ordinato di sistemare il lettino della bambina in camera sua e se lei sarà così gentile da sorvegliare che si lavi e si vesta e da prendersi cura dei suoi abiti, non avrà ragione di avere a che fare con la bambinaia. Risposi che avrei fatto volentieri quel che mi chiedeva e in quel momento entrarono nella stanza i miei giovani allievi insieme alle loro 2 sorelle più piccole. Il signorino Tom Bloomfield era un ragazzo ben piantato di 7 anni, con una corporatura un poco muscolosa, capelli chiarissimi, occhi azzurri, nasino volto all'insù e una bella carnagione. Anche Marianna, alta, bruna, ricordava sua madre, ma con un viso rotondetto e delle guance molto colorite. La seconda sorella si chiamava Fanny ed era molto graziosa. La signora Bloomfield mi assicurò che era una bambina molto docile e che aveva bisogno di incoraggiamento. Ancora non aveva imparato, ma entro pochi giorni avrebbe avuto 4 anni e allora poteva ricevere la prima lezione di alfabeto ed essere ammessa nella sala studio. L'ultima si chiamava Enrichetta, una bambolotta di neppure 2 anni, grassa, allegra e che avrei preferito a tutti gli altri, ma la sua sorveglianza non era affidata a me. Cominciai a discorrere con i miei piccoli allievi con la maggior familiarità possibile e cercai di rendermi simpatica, ma credo con poco successo, poiché la presenza della madre mi metteva a disagio. Essi comunque erano notevolmente privi di soggezione. Parevano dei bambini vivaci, affatto timidi, e sperai che sarei stata presto con loro in rapporti amichevoli, specialmente col ragazzino, il carattere del quale avevo sentito lodare dalla madre. In Marianna c'era un certo sorriso affettato e un desiderio d'attirare l'interesse che notai con rammarico, ma il fratello reclamava tutta la mia attenzione per sé. Si mise baldanzosamente in piedi fra me e il fuoco e con le mani dietro la schiena cominciò a chiacchierare come un oratore, interrompendo di tanto in tanto il discorso per rimproverare acerbamente le sorelle quando facevano troppo strepito. «Oh, Tom, che tesoro!» esclamò sua madre. «Vieni a dare un bacio a mammina e poi devi mostrare alla signorina Gray la vostra stanza di studio e i vostri bei libri nuovi. Il bacio, mamma, non ho voglia di dartelo, però mostrerò alla signorina Gray la mia stanza di studio e i miei libri nuovi». «E la mia stanza di studio e i miei libri nuovi, Tom», disse Marianna. «Sono anche miei». «Sono miei», rispose quello risolutamente. «Venga, signorina Gray, l'accompagnerò». Dopo che mi furono mostrati la stanza e i libri, con qualche bisticcio tra fratello e sorella che feci il possibile per appianare o mitigare, Marianna mi portò la bambola e cominciò a diventare molto loquace intorno ai bei vestiti, al letto, al cassettone e agli altri oggetti della bambola. Ma Tom le ordinò di tacere perché la signorina Gray potesse vedere il suo cavallo di legno che con la più grande importanza trascinò nel mezzo della stanza, richiamando a voce alta la mia attenzione. Poi, avendo ordinato a sua sorella di reggere le briglie, salì e dovette rimanere per 10 minuti a osservare con che abilità adoperava la frusta e gli speroni. E intanto ammiravo la graziosa bambola di Marianna e tutti i suoi possessi e dissi a Tom che era un cavaliere esperto, ma che speravo che quando avesse cavalcato un vero pony non avrebbe adoperato tanto spesso la frusta e gli speroni. «Oh, sì, certamente», disse colpendo il cavallo con ardore raddoppiato. «Gli darò addosso con furia, parola d'onore, se non lo farò sudare». Non mi garbava, ma sperai che col tempo sarei riuscita a cambiarlo. «Ora deve mettersi il cappello e lo scialle», disse il piccolo eroe, «e le mostrerò il mio giardino». «E il mio!» disse Marianna. Tom alzò il pugno con gesto minaccioso. Ella lanciò un grido alto e stridulo, corse al mio fianco e gli fece una smorfia. «Certamente, Tom, non vorrai picchiare tua sorella. Spero di non vederti mai fare una cosa simile». «Me lo vedrà fare qualche volta. Ci sono costretto di tanto in tanto per metterla a posto». «Ma lo sai che non tocca a te metterla a posto, tocca... Bene, ora vado a mettersi il cappello». «Non so, il tempo è così nuvoloso e freddo, sembra che verrà a piovere e sai che ho fatto un lungo viaggio». «Non importa, deve venire, non accetterò scuse», rispose quel signorino che non transigeva. E poiché era il primo giorno della nostra conoscenza, pensai che era bene accontentarlo. Faceva troppo freddo perché Marianna ci accompagnasse, così ella rimase con la madre, con gran sollievo del fratello che preferiva avermi tutta per sé. Il giardino era grande, disposto con buon gusto. Oltre a parecchie splendide dalie c'erano altri bei fiori ancora in boccio, ma il mio compagno non mi diede il tempo di osservarli. Dovetti attraversare con lui l'erba umida fino a un cantuccio appartato, il luogo più importante della proprietà, poiché vi si trovava il suo giardino. C'erano due aiuole rotonde che contenevano molte varietà di piante. In una delle aiuole vidi un grazioso alberello di rose. Mi fermai per ammirare i suoi boccioli deliziosi. «Oh, non stia a guardarlo», disse sprezzantemente. «Questo è soltanto il giardino di Marianna, guardi, questo è il mio». Solo dopo che ebbi osservato ogni fiore e ascoltato la descrizione di ogni pianta mi permise di andarmene. Ma prima, con grande importanza, colse un polianto se me lo presentò, come se mi facesse un favore straordinario. Osservai sull'erba intorno al suo giardino un certo apparato di bastoni e di corde e chiesi che cosa fosse. Trappole per gli uccelli. Perché li acchiappi? Il babbo dice che danneggiano. E che cosa ne fai quando li hai acchiappati? Dipende. A volte li do al gatto, a volte li taglio a pezzi col temperino, ma la prossima volta ho intenzione di arrostirli vivi. E perché intendi commettere un gesto così orribile? Per due ragioni, prima per vedere per quanto tempo rimangono vivi e poi per vedere che gusto ci provano. Ma non sai che è una grande crudeltà? Gli uccelli, ricorda, sentono come te e a te piacerebbe provare le stesse cose? Oh no, io non sono un uccello e non posso soffrire quel che soffrono loro. Ma un giorno, Tom, lo proverai, Lo sai dove vanno i cattivi quando muoiono? E se non lo smetterai di torturare quegli uccelli innocenti, ricordati, dovrai andare là a soffrire tutto quello che hai fatto soffrir loro. Oh, basta. Non smetterò. Il babbo sa come li tratto e non mi ha mai biasimato per questo. Dice che faceva lo stesso lui quando era ragazzo. L'estate scorsa mi ha dato un nido pieno di rondinini e mi vide strappar loro le zampe, ali e teste e non mi ha detto mai nulla. Solo che erano degli esseri malfatti e che non dovevo lasciarli sporcare i miei pantaloni. E c'era anche lo zio Robson che rideva e diceva che era un ragazzo raro. Ma che cosa avrebbe detto tua madre? Oh, lei non se ne impiccia. Dice che è un peccato uccidere gli uccelletti che cantano, ma che con le brutte rondini, i topi e i ratti posso fare quel che mi pare. Così, signorina Grey vede, ora che non è una crudeltà? Credo ancora che lo sia, Tom. E forse anche tuo padre e tua madre penserebbero lo stesso se ci riflettessero sopra. Comunque, aggiunsi fra me, possono dire quel che gli pare, ma non farai certo nulla del genere finché potrò impedirtelo. Poi il ragazzo mi fece attraversare la prateria per vedere le sue trappole per le talpe e quindi entrare nel cortile del podere per vedere le trappole per le donnole, una delle quali, con sua grande gioia, conteneva una donnola morta. Entrammo poi nella stalla per vedere non dei bei cavalli da carrozza, ma un rozzo puledro che mi disse era stato allevato apposta per lui. Lo avrebbe cavalcato non appena fosse stato domato a dovere. Cercai di divertire il mio piccolo compagno e ascoltai le sue chiacchiere con la maggior compiacenza che potei, poiché pensavo che se era suscettibile di qualche affezione avrei cercato di conquistarla. E poi, col tempo, sarei stata in grado di dimostrargli gli errori della sua condotta. Ma cercai invano quell'animo nobile e generoso di cui sua madre aveva parlato, benché potessi vedere che non era privo di un certo grado di svegliatezza e penetrazione quando voleva esercitarle. Rientrammo in casa, che era quasi l'ora del tè. Il signorino Tom mi disse che, siccome il padre era fuori di casa, lui, io e Marianna avremmo avuto l'onore di prendere il tè con la mamma, perché in tali occasioni ella mangiava sempre con loro all'ora della merenda invece che alle 6. Subito dopo il tè, Marianna andò a letto, ma Tom ci concesse la sua compagnia e la sua conversazione fino alle 8. Partito che fu, la signora Bloomfield ritornò nuovamente sulle inclinazioni e le qualità dei suoi figli, su quel che dovevano imparare e come dovevano essere trattati, e mi raccomandò di non menzionare i loro difetti che a lei. Mia madre già mi aveva raccomandato di parlargli nel meno possibile, perché alla gente non piace sentir discutere dei difetti dei propri figli, e così conclusi che non gliene avrei parlato affatto. Verso le 9:30 la signora Bloomfield mi invitò a partecipare a una frugale cenetta di pane e carne fredda. Fui contenta quando fu finita e la vidi prendere il candeliere per andare a riposare, perché sebbene cercassi di gradire la sua compagnia, mi era terribilmente pesante e non potevo fare a meno di giudicare la signora fredda, grave e inaccessibile, proprio all'opposto della donna gentile e affabile che avevo immaginata.